Buonasera, sulle note del divertimento numero uno di Mozart iniziamo questa bellissima serata dedicata ai manoscritti datati di Bolzano e provincia e saluto con grande piacere, oltre che ringraziarli per questa sorpresa, Ursula Stampfer che siede qui al tavolo con noi come autrice. Si occupa di manoscritti presso la Biblioteca Nazionale a Monaco ed è una pendolare della cultura, oltre che una grande e brava musicista, come avete potuto apprezzare già in questa prima, questo primo intermezzo. Poi abbiamo con noi l'altro autore, Leonardo Granata, che ha collaborato con l'Università di Padova e che, diciamo, mi diceva di definirlo un libero battitore, posso? Quindi si dedica ancora alla ricerca e con grande entusiasmo ed è il coautore di questo libro che stasera scopriremo insieme. Abbiamo però anche altre gentili ospiti che voglio salutare, la professoressa Martina Pantarotto che è la presidente dell'AIMD, l'Associazione Italiana Manoscritti Datati, e Nicoletta Giovè Marchioli che è professoressa di paleografia all'Università degli Studi di Padova. Saluto inoltre il collega Gustav Pfeiffer, che è dell'Archivio Provinciale ed è qui con noi questa sera, ma insieme a lui abbiamo anche Ulrich Fistil, che saluto, buonasera, benvenuto, che è il direttore della Biblioteca Diocesana. Ed infine voglio salutare anche la collega, la Landeskonservatorin Karin Dalla Torre, che è qui con noi questa sera, e anche il dottor Stampfer, che vedo qui in sala, che ho avuto il piacere di incontrare prima. Bene. Abbiamo tante cose da raccontarci, soprattutto avete tante cose da dirci, da spiegarci, quindi non voglio rubare altro tempo. Vi prometto che ci saranno altri intermezzi musicali, vero Ursula? Ecco, benissimo. Allora vi ringrazio, vi lasciamo fuori in entrata dei volantini con gli appuntamenti della prossima settimana, perché in biblioteca ogni martedì e mercoledì ci sono o conferenze o presentazioni di libri oppure dei gruppi di lettura dedicati ai romanzi locali oppure a temi di interesse scientifico. Lascio la parola a voi e grazie anche a voi per essere qui presenti. Non canterò, non suonerò, grazie. Liebe Ursula, carissimo professor Granata, hochwürdiger Herr Domdekan, cara Valeria, liebe Karin, care colleghe, cari colleghi, gentili signore, egregi signori, verehrte Damen und Herren, stimar Publik. Esce nel 1996 il primissimo volume della collana I manoscritti datati d'Italia dal titolo I manoscritti datati della provincia di Trento. Si sa che l'erba del vicino è sempre più verde e che tra cugini non è sempre tutto rose e fiori. In questo caso il sentimento prevalente però era quello di pura invidia. Dopo quasi 30 anni d'attesa dunque sono usciti i manoscritti datati di Bolzano e provincia e riusciamo, grazie all'impegno e alla professionalità della dottoressa Stampfer e del professor Granata, a pareggiare i conti. Per una provincia ricca di patrimonio culturale e a statuto speciale è fondamentale valorizzare questo suo patrimonio, che sia artistico, architettonico, archeologico, archivistico o bibliografico. Come ufficio della soprintendenza ai beni culturali, l'archivio provinciale mette a disposizione e stanzia per biblioteche storiche e fondi archivistici privati ed ecclesiastici, ma anche per singoli pezzi posti sotto tutela, contributi finanziari, contributi destinati soprattutto al restauro e ai lavori di catalogazione, ma anche alla conservazione, sotto forma di scaffalature, scatole a lunga conservazione, rilevatori di fumo e in casi particolari anche di impianti di climatizzazione. Con l'ultima modifica dei criteri per la concessione dei contributi sono state inserite anche campagne di digitalizzazione. Il tutto ovviamente si basa sul codice dei beni culturali ed ambientali e sulla legge provinciale sui beni culturali, la numero 14 del 18 luglio 2023. Criteri guida per noi sono la professionalità, la qualità e i best practices, l'avanguardia, per cui siamo lieti di poterci avvalere degli albi professionali pubblicati dal Ministero della Cultura. Le materie umanistiche negli ultimi anni sono sottoposte a una crescente pressione giustificativa e sospettate di mancanza di scientificità, il loro valore specifico viene sempre meno inteso e apprezzato nella misura che loro spetterebbe. Proprio per questo motivo è importantissimo l'integrazione della ricerca nel nostro settore in contesti sovraregionali e interdisciplinari, progetti e iniziative di ricerca che possano sviluppare un potenziale e un impatto più ampi, conferendo anche visibilità. È proprio in questa direzione che si inserisce questo pregiato volume dei manoscritti datati d'Italia. Nel nostro specifico caso provinciale, l'assegnazione di contributi finanziari mira soprattutto a rafforzare le singole realtà e sedi periferiche delle collezioni, degli archivi e delle biblioteche, così come i loro titolari e responsabili. Basta dare un'occhiata all'indice del volume che viene presentato stasera per notare che la maggior parte dei tesori manoscritti è conservato in istituzioni ecclesiastiche. Questo argomento sarà sicuramente approfondito dal decano del capitolo della cattedrale Don Festil. Da parte nostra ci limitiamo a sottolineare che un accordo quadro, un'intesa tra la provincia e le autorità ecclesiastiche in materia di beni culturali è indispensabile e deve essere una delle nostre priorità per il futuro. E anche in questo campo i cugini trentini ci hanno preceduti e possono fungere da fulgido esempio. Questa sera possiamo complimentarci per il completamento di questo importante progetto. Personalmente, in qualità di convinto sostenitore del libro analogico, sono particolarmente lieto che il volume sia stato stampato su carta e rilegato secondo la tecnica tradizionale collaudata da secoli e che non sia stato sacrificato al presunto e onnipresente dominio del digitale. Ci congratuliamo con la Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino e la casa editrice Edizioni del Galuzzo di Firenze per questa decisione. Ringrazio gli organizzatori di questa serata, la Biblioteca Provinciale Claudia Augusta e i due autori Ursula Stampfer e Leonardo Granata, e auguro a tutti noi una stimolante e piacevole serata. Grazie. Sagate Damen und Herren, stimati signore e signori, in quanto direttore della Biblioteca Diocesana, per me un piacere porgere un cordiale saluto qui a tutti i presenti. All'interno delle nostre biblioteche, sia civili che ecclesiastiche, riposano tesori che sono molto più di semplici libri o documenti. Sono testimoni di secoli di cultura, di sapere e non per ultimo, come già accennato, anche di fede. Der Wert dieser Handschriften liegt nicht allein in ihrem Alter, sondern in ihrer Bedeutung für die Geschichte unserer Kirche, unserer Gesellschaft und unseres Landes. Sie bewahren die Spuren einer Zeit, in der das schriftliche Wort, wie schon angeklungen, noch in mühseliger Handarbeit entstanden ist, Buchstabe für Buchstabe, Zeile für Zeile, oftmals verbunden mit kunstvollen Verzierungen und kostbaren Miniaturen, die vom hohen Verständnis für die Schönheit und für die Würde des Geschriebenen zeugen. Ogni manoscritto è una testimonianza unica, che non ci tramanda solamente un contenuto, ma ci parla anche di un tempo in cui è nato, della lingua e della scrittura, della spiritualità e del pensiero, della cultura e della maestria artistica dei secoli passati. Conservando e studiando questi tesori entriamo consapevolmente in una tradizione fondata sulla continuità e sul rispetto di ciò che è stato tramandato. Anche se per il mondo moderno l'intelligenza artificiale è diventata, se non l'unico, perlomeno uno dei più importanti punti di riferimento, non dimentichiamoci che la nostra epoca poggia sulle fondamenta gettate da chi ci ha preceduto e che senza la loro fatica e la loro fedeltà non potremmo oggi godere di tanta ricchezza e direi anche di tante tecnologie. Non vengono dal nulla. Ringrazio perciò di cuore gli autori del volume che ci viene presentato oggi perché con il loro impegno e un duro lavoro di ricerca ci offrono uno scorcio su un'epoca che forma il fondamento della nostra cultura. Possa questo volume, che ci aiuta a contemplare, studiare, preservare queste preziose testimonianze del passato per le generazioni future, trovare accesso non solo negli scaffali delle nostre biblioteche, ma anche nel cuore e soprattutto nella consapevolezza di noi tutti e dei nostri cittadini. Grazie di cuore, Allan ein großes Vergelt's. Buonasera a tutti, parlo in questo consesso a nome dell'Associazione Italiana Manoscritti Datati, e il mio compito quindi questa sera è semplicemente di delineare il perimetro del lavoro che ha portato al volume di cui questa sera parleremo. Il progetto Manoscritti Datati d'Italia si collega ad un progetto internazionale fondato nella metà del secolo scorso con l'intento di catalogare prioritariamente all'interno dell'incredibile patrimonio manoscritto conservato in Europa e anche al di là dell'oceano, i manoscritti che presentassero un'indicazione relativa alla confezione, quindi non semplicemente o solo la data, ma anche poteva essere un elemento di inclusione, il luogo, il nome del copista, del miniatore, quindi una circostanza effettiva, ancorabile a un luogo, a uno spazio, a un individuo, relativa alla confezione di questo manoscritto. L'intento naturalmente della ricerca è sempre quello di partire dal noto per riuscire ad affrontare l'ignoto, e quindi l'obiettivo è raccogliere cataloghi di questi manoscritti corredati da un'immagine per ogni copista che interviene, per offrire uno strumento di conoscenza e studio per tutto quello che non è datato. Ora, dopo 75 anni di lavoro, l'impresa ha subito e ha messo in luce alcuni punti di forza, altri di debolezza. È rappresentativa soprattutto per i manoscritti del pieno e del basso medioevo, XIV-XV secolo, perché vuoi per la conservazione maggiore del corpus, vuoi per le diverse circostanze della trasmissione culturale, la maggior parte delle sottoscrizioni riguardano manoscritti relativi a questi secoli. E mentre in altre regioni d'Europa il lavoro è stato concluso velocemente, in Italia, per una serie di motivi politici ma anche storici e non da ultimo l'enorme quantità di materiale che si è conservato nel territorio, il progetto è ancora in corso. È stato, dopo un primo tentativo degli anni 70, ripreso alla fine del secolo scorso, e il primo volume della collana è stato appunto menzionato ed è stato i manoscritti datati di Trento e provincia. Nei 30 anni intercorsi, forse anche di più, no, 30 anni, abbiamo fatto uscire 35, vedete, questo è il 35esimo volume della collana, una collana di cui è responsabile l'Associazione Manoscritti Datati, quindi la collana Manoscritti Datati d'Italia, edita da Sismer, ma della quale rivendichiamo tutte le scelte, comprese quelle suscitate, di continuare ad uscire in formato cartaceo, inserendo e mettendo a disposizione nel nostro sito solamente il corredo iconografico con una scheda di rinvio al volume a stampa. Sono scelte insomma ponderate, anche difficili, discusse, per cui che ci chiedono molto, molto sforzo, perché comunque far uscire questi volumi, che si devono senza dubbio alla acribia e alla capacità dei catalogatori, comportano tuttavia anche lo sforzo di tutta una serie di revisioni, riletture, consulenze. Sono dei cataloghi che non potrebbero venire alla luce se non come collaborazione di più forze. In primis abbiamo detto i catalogatori, però senza dubbio i responsabili delle sedi e degli istituti di conservazione, che devono offrire il loro sostegno e il loro supporto e agevolare la logistica, e poi tutte le fasi successive, la campagna fotografica e quant'altro. Quindi sono lavori molto complessi, molto più complessi di quello che sembra, che può apparire tenendo in mano il volume, ma sono lavori che noi crediamo valga la pena comunque di fare, nonostante le incredibili difficoltà che a volte ne protraggono anche le vicissitudini. Vale la pena di fare, sono volumi che coprono tutto il nostro territorio italiano in maniera diversa, di forme e un pochino a macchia di leopardo, ma siamo fiduciosi di riuscire nelle generazioni future a completare il puzzle, per cui dalla Sicilia arriviamo all'Alto Adige e speriamo presto di unire anche la Val d'Aosta, e quindi poter comprendere la grandissima varietà e la ricchezza del patrimonio culturale che in questo catalogo emerge, perché l'Italia è molta e diversa e il patrimonio conservato ne dà testimonianza viva, per cui troviamo, ma altri dopo di me parleranno di quello che troviamo, ecco, non voglio anticipare nulla. Ringrazio anch'io gli autori di questo pregevolissimo catalogo e mi accingo ad ascoltare insieme a voi i dettagli che i qui presenti ci sottoporranno al nostro piacere. Grazie. Io non ripeterò quello che ha detto Martina e non anticiperò quello che diranno Ursula e Leonardo, ma vi dirò in breve, anzi talmente sarò sicura di essere breve che farò partire, come faccio sempre, il cronometro per sapere quanto parlo. Sì, lo faccio sempre. E dicevo, in breve parlerò di due cose. Vi racconterò la storia di questo catalogo, o meglio dell'iniziativa che c'è sotto, dell'iniziativa specifica a questo catalogo, e vi mostrerò, vi spero in maniera convincente, tutto quello che questo catalogo può offrire alla ricerca. Quindi lo faccio, come dire, dalla mia prospettiva, e comincio col dirvi che il primo nucleo di interesse per il lavoro della catalogazione dei manoscritti datati nell'Alto Adige si è manifestato all'interno di alcuni progetti di ricerca di interesse nazionale che sono stati finanziati a partire dal 1999. A quell'epoca risale il primo progetto di catalogazione di questi manoscritti, e questi progetti sono stati riproposti nel corso degli anni, sono stati finanziati, grazie a Dio, e questo ha permesso di poter portare avanti, insomma, anche questo ha permesso di poter portare avanti questo lavoro. E sono stati finanziati per molti anni, fino ad arrivare a un ultimo grande finanziamento, che è quello che poi in qualche modo ha concluso anche per alcuni versi il lavoro di catalogazione in alcune aree, che è un progetto che si chiamava non più Manoscritti datati d'Italia, bensì Biblioteca Italica Manoscripta, descrivere, documentare e valorizzare i manoscritti medievali d'Italia. E mi fa piacere ricordare che il PI, ovvero il responsabile del progetto di ricerca, è stato per molti anni Stefano Zamponi, che insomma è stato amico maestro di molti di noi, che non c'è più, ma insomma che ha voluto fortemente avviare l'impresa di catalogazione dei manoscritti datati d'Italia e portarla avanti anche concretamente, facendo progetti di ricerca in tal senso e ottenendo dei finanziamenti interessanti. Quindi questo per quel che riguarda proprio nel concreto come ha funzionato il supporto che c'è stato a questo progetto. Però mi interessa anche raccontarvi che cosa si può trovare in questo catalogo che ha a che fare con molti progetti di ricerca che ci sono attualmente in essere, che riguardano me stessa ma anche altre persone, e che dimostrano come la catalogazione dei manoscritti datati sia lo strumento più straordinario per ottenere una gran messe di informazioni che poi naturalmente vengono offerte generosamente all'attenzione di chi le utilizza per fare altre ricerche. Vi faccio davvero solo qualche esempio. Uno dei filoni che attualmente, insomma, molti studiosi, non solo la sottoscritta, seguono nei percorsi di indagine sulla cultura scritta nel Medioevo riguarda i copisti. I copisti intesi come personaggi che possono avere un livello culturale, grafico più o meno elevato e che lasciano tracce di sé per l'appunto nei manoscritti. E i copisti sono osservati ad esempio attraverso le sottoscrizioni che lasciano, quindi uno degli studi che insomma è molto alla page in questo momento riguarda proprio le sottoscrizioni dei copisti, e in questo catalogo ce ne sono alcune bellissime. Io non so se anticiperò qualcuna di Leonardo. Di 14 Seminario Maggiore, lo citi? Quella a cui cavano gli occhi? Sì, vogliono... sì. Ah, ecco, allora sentirete una delle... Minaccia, sì, sì. Una delle così gentili maledizioni che i copisti lasciano a coloro che, insomma, rubano eventualmente i libri da loro prodotti. Quindi lascio poi, insomma, a Leonardo l'illustrazione della cosa. Ma sempre a proposito dei copisti, un altro delle filoni, insomma, che si è percorso riguarda, per esempio, i tempi della copia, quindi la ricostruzione del processo di copia e delle modalità dal punto di vista cronologico che i copisti seguono, quindi il ritmo della scrittura. E anche in questo caso ce ne sono di esempi molto interessanti. Un altro manoscritto del Seminario Maggiore, non so se citi anche quello con tutte le sottoscrizioni cronologicamente esposte, forse no? Quello toscano. Sì, ecco. Certo, e riguarda, lo sentirete, quindi anticipo questa cosa, la scansione del tempo da parte dei copisti. E a proposito dei copisti, un altro dei filoni interessanti, per esempio, che ultimamente interessa a me in particolare, ma molti altri studiosi, riguarda per esempio l'attività dei copisti stranieri in Italia, copisti che possono essere copisti di professione, ma anche molto spesso studenti universitari che copiano da sé, per sé, ma anche per altri, i libri su cui possono e devono studiare. È un filone molto interessante che peraltro in qualche modo viene a intrecciare con un progetto specifico invece che ha riguardato l'università in cui insegno, l'Università di Padova, fondata nel 1222, che proprio appunto nel 2022 ha celebrato gli 800 anni della sua storia, dando vita a una serie di iniziative, fra cui quella che si chiama BO 2022, che è un database di tutti gli studenti che nel corso dei secoli hanno studiato a Padova. E c'è un sotto database che riguarda gli studenti stranieri che hanno studiato a Padova. E anche grazie a questo catalogo, insomma, si raccolgono notizie in tal senso, ma al di là di Padova non vorrei essere troppo elogiativa della mia piccola patria lavorativa, ma questo filone di studio sui copisti stranieri è molto interessante dal punto di vista paleografico, perché in qualche modo ci fa capire la varietà di esiti delle scritture che si trovano in particolare nel 400 italiano. E anche qui, insomma, i casi ce ne sono molti, insomma, di molti frati, per esempio, di origine austriaca che scrivono in Italia. Cito il primo che mi viene in mente, del manoscritto del convento dei Francescani, il codice sezioni si devono allo stesso copista, che è un Georg, che arriva da Tulln, no? Nella bassa Niederösterreich. Quindi, tanto per dire come poi molto spesso i copisti parlano delle loro stesse origini. E mi avvio a concludere facendo solo due ulteriori riferimenti. Il primo riguarda, a proposito dei copisti, lo studio... Ah. Ok, ora meglio, sì. Dicevo, le donne che scrivono, le donne copiste, sono un filone interessantissimo della ricerca sulla cultura grafica, sulla produzione scrittoria medievale, in particolare tardo medievale, e siccome questo catalogo non si fa mancare niente, non si fa mancare neanche la presenza di una donna che scrive. È un unico caso, però è molto interessante, un manoscritto conservato nella biblioteca del convento delle Clarisse di Bressanone, in cui si cita espressamente il nome della copista, che era Anna Riemersbergerin. A proposito di copisti, dal catalogo dei manoscritti datati di Bolzano e provincia arrivano molte informazioni che sono già confluite all'interno di un database che è in fase di implementazione, che si chiama Scribit. È un progetto di ricerca di recente avvio, in cui è coinvolta anche Martina Pantarotto, e il progetto Scribit vorrebbe realizzare per quanto possibile il corpus dei copisti medievali che hanno italiani, ovvero che sono italiani o che hanno lavorato in Italia, quindi anche copisti stranieri che hanno lavorato in Italia. È un progetto ancora in essere, che sfrutta ovviamente in particolare, in primis, le informazioni che arrivano dai cataloghi di manoscritti datati, che come un segno, per cui mi fermo e vi ringrazio molto. Grazie mille. Allora, visto che c'è un altro intermezzo musicale, ne approfitto di questo momento per ringraziare anche i musicisti, e sono Christine Greif e Simon Rauch, e poi, come avete già conosciuto, Ursula Stampfer. Grazie e complimenti. Thank you. prima che poi Leonardo ci parlerà di alcune particolarità del catalogo, vi presenterò una breve panoramica dei fondi manoscritti in Alto Adige. Grazie alla sua posizione geografica, il Tirolo nel Medioevo, oltre ad essere importante sul piano politico, svolgeva un ruolo di mediatore culturale tra la Germania meridionale e l'Italia settentrionale. In questo contesto anche i manoscritti, le stampe e le biblioteche in generale assumono un'importanza come fenomeni culturali, inizialmente nei monasteri e a partire dal 200 anche in ambito nobiliare. Tuttavia, di tutte queste collezioni solo una parte è stata conservata. Molto è andato perduto, molto è passato in altre mani. Le cause, come sappiamo, sono diverse. Cambiamenti violenti, incendi, saccheggi, guerre e decisioni politiche ed ecclesiastiche. All'epoca dell'imperatore Giuseppe II, ovvero dal 1782 al 1787, sono stati soppressi ben 11 conventi monasteri maschili e 10 femminili dei 64 monasteri presenti in Tirolo. Le dimensioni delle biblioteche soppresse variavano notevolmente. Il patrimonio complessivo di tutte le biblioteche conventuali soppresse all'epoca è stimato tra i 25 e i 30.000 volumi. E di questi, solo circa 8.000 volumi furono incorporati nell'allora biblioteca liceale, oggi biblioteca universitaria di Innsbruck. Una piccola parte fu trasferita alla biblioteca di corte, oggi Biblioteca Nazionale Austriaca a Vienna, ma la maggior parte fu distrutta e soprattutto venduta all'asta pubblica. Per quanto riguarda i fondi bibliotecari medievali nell'odierno Alto Adige, vanno menzionati in particolare la soppressione della certosa di Allerengelberg a Senales e quella della collegiata di San Candido. Secondo un catalogo dell'epoca, la certosa possedeva 335 manoscritti, la maggior parte dei quali probabilmente redatti nel proprio scriptorium. Inoltre, la certosa intratteneva intensi rapporti soprattutto con la famiglia nobile di Annenberg, appassionata di libri, che donò, come questo manoscritto, al monastero numerosi volumi. Nella biblioteca della collegiata di San Candido, fondata originariamente nel 769 dal duca Tassilo III di Baviera come monastero benedettino, si trovava il cosiddetto Innicher Evangeliar della fine del IX, inizio del X secolo, il più antico manoscritto oggi ancora conservato in Tirolo. Questo fa supporre l'esistenza di una biblioteca ben fornita, anche se la biblioteca universitaria di Innsbruck al momento della soppressione ha acquisito solo 11 dei quasi 100 volumi presenti. Ciò potrebbe essere semplicemente dovuto al fatto che Giuseppe II aveva soppresso la collegiata, ma le aveva permesso di continuare a esistere in forma modificata come stazione pastorale. E ancora oggi più di 50 manoscritti della biblioteca dell'antica collegiata si trovano nella loro sede originaria, come questo messale della metà del XV secolo. Le grandi abbazie del Tirolo, cioè le abbazie agostiniane di Novacella, San Michele all'Adige e Gries presso Bolzano, le abbazie benedettine di Marienberg e St. Georgen per Kviecht, il monastero dei canonici premonstratensi di Wilten e il monastero cistercense di Stamsk, che erano stati risparmiati sotto Giuseppe II, furono soppressi durante il periodo in cui il Tirolo apparteneva alla Baviera. Tutti possedevano vaste collezioni di libri con opere che risalivano al periodo della loro fondazione e che testimoniano la loro importanza come centri spirituali e culturali nel corso di molti secoli. Nell'aprile del 1809 da Novacella furono trasferiti a Innsbruck 60 quintali di libri, tra cui 800 incunaboli e oltre 150 manoscritti, alcuni dei quali riccamente miniati. Solo pochi manoscritti liturgici, che probabilmente non erano conservati nella biblioteca, ma nella chiesa o nella sagrestia, tra cui due volumi del famoso graduale di Novacella, di grande formato, della metà del XV secolo, rimasero nell'abbazia. Dopo lunghe trattative, che non posso descrivere in dettaglio per motivi di tempo, nel 1929 99 manoscritti tornarono a Novacella. Il monastero di Marienberg, che come Gries presso Bolzano e San Michele all'Adige era stato pesantemente saccheggiato durante la guerra dei contadini e possedeva pochissimi oggetti di valore a questo tempo, aveva consegnato solo 8 casse di libri e nel 1817 ne ricevette indietro 142 libri, ma nessun manoscritto. Oggi vi si trovano nuovamente, o forse ancora, 5 manoscritti medievali che però sono entrati a far parte della biblioteca soltanto in un secondo momento, come questo salterio della metà del XII secolo. Come noto, San Michele all'Adige e l'abbazia agostiniana di Gries non furono ricostituiti. Dalla metà dell'Ottocento gli edifici di Gries accolgono i monaci benedettini di Muri in Svizzera. I monasteri non coinvolti nelle decisioni di politica ecclesiastica della fine del VII e dell'inizio dell'Ottocento e quelli che riuscirono a evitare la distruzione delle loro biblioteche conservano fondi librari storici. Il convento delle Clarisse di Bressanone, fondato intorno al 1235, quando Santa Chiara era ancora in vita, possiede una ricca collezione di manoscritti, stampe di pregio e tesori artistici. A causa della rigida clausura, questi sono difficilmente accessibili e quindi ancora oggi poco conosciuti. Dai 70 manoscritti presenti nel catalogo ottocentesco, per quanto ne sappiamo, oggi ne rimangono solo 26. Solo grazie al sostegno di Leo Andergassen e Peter Schwienbach, Leonardo è riuscito a vedere per poche ore almeno i 10 che contengono una datazione o il nome del copista e che sono stati inseriti nel nostro catalogo. Ulrich si ricorderà che noi due eravamo davanti, abbiamo pregato, però non ci hanno lasciato entrare. Ecco, questo sarebbe uno di questi codici ancora oggi conservati, e proprio questo codice che è stato scritto, che è stato copiato da una copista, diciamo donna copista. Anche la fondazione dei conventi francescani di Bolzano e Bressanone risale al XIII secolo. Grazie alla provincia francescana tirolese fondata nel 1580 su iniziativa dell'arciduca Ferdinando II d'Austria, l'ordine conobbe una nuova fioritura, come dimostrano chiaramente le numerose fondazioni di conventi nel Seicento. Tra l'altro, Caldaro, San Candido, Hall e Aroit. I frati si occupavano principalmente della cura delle anime, ma svolgevano anche un'attività didattica sempre più intensa e si dedicavano alla ricerca scientifica, tanto che in tutte le sedi si può ipotizzare l'esistenza di una biblioteca ben fornita. La percentuale di manoscritti medievali nei singoli monasteri però è piuttosto bassa a causa delle date di fondazione, ma non va trascurata. Anche l'ordine dei Cappuccini riuscì ad affermarsi rapidamente in Tirolo. Nel 1593-94 l'arciduca Ferdinando II e sua moglie Anna Caterina Gonzaga fondarono a Innsbruck il primo convento in area linguistica tedesca. Nel giro di pochi anni ne seguirono altre Bolzano, Bressanone, Merano, Silandro, Brunico, Vipiteno e Imst. Analogamente all'ordine francescano, anche i conventi dei Cappuccini furono colpiti solo in modo sporadico dalle ondate di soppressione e riuscirono a conservare gran parte del loro patrimonio librario. Da alcuni anni, tuttavia, a causa del calo delle vocazioni e dell'età media elevata dei frati, i conventi si trovano in difficoltà a sopravvivere. Le collezioni di libri vengono talvolta trasferite nelle biblioteche provinciali di recente costruzione a Innsbruck e a Bressanone. Vanno ricordate anche le numerose biblioteche parrocchiali, tra cui anche la prebositura di Bolzano. Arriveremo alla più grande, o alla biblioteca con la più grande collezione di manoscritti nell'Alto Adige, che è la biblioteca del Seminario Maggiore di Bressanone, con un totale di 126 manoscritti medievali. La maggior parte di questi manoscritti proviene probabilmente dalle raccolte librarie dei principi vescovi di Bressanone. In ben 48 manoscritti troviamo una nota di possesso del bibliofilo Melchior von Meckau, che fu prevosto della cattedrale di Meissen e poi dal 1488 principe vescovo di Bressanone. Singoli manoscritti inoltre sono giunti in biblioteca dalle parrocchie circostanti o da collezioni privati, tra cui il cosiddetto famoso Messale di Carnol, che secondo le note di consacrazione era già utilizzato nel 1113 nella chiesa di San Giovanni a Carnol presso Bressanone. Fu scoperto intorno al 1756 da Josef Resch, all'interno di una cassapanca in una casa privata e donata alla biblioteca del seminario. Una panoramica approssimativa dei manoscritti tirolesi sarebbe incompleta se non si menzionassero le collezioni private e le biblioteche nobiliari. La fonte più importante a questo proposito sono gli inventari conservati, che consentono di trarre conclusioni sulle collezioni di libri di famiglie nobili. Purtroppo le biblioteche stesse non sono sopravvissute. Le nostre conoscenze su di loro sono estremamente scarse. Grazie. Bene, a me allora concludere facendovi vedere, portandovi dentro i manoscritti che abbiamo visto e dandovi alcuni esempi di mani di copisti, esempi di libri. Allora, innanzitutto devo dire che il titolo che abbiamo dato all'introduzione di questo volume, un'opera di confine, capite bene che lo è sotto molteplici punti di vista. Lo è perché siamo in un territorio di confine e di costanti passaggi, come più volte è stato detto anche prima, dove incontriamo e incrociamo copisti provenienti da varie parti del nord Italia, del Tirolo, del sud dell'area gerbanofona. L'esempio che vedete è di un copista, è un codice conservato al Museo Civico qui a Bolzano, un copista che proviene da un monastero cistercense vicino a Lubiana, è datato al 1296. La sottoscrizione ve la faccio vedere, eccola qui, vedete qui è fortemente ingrandita, vedete la data, appunto 1296, scriptus est per me Rotlibum de Laibacho di Laibach Liber Ist. È solo uno dei tanti esempi di codici e di libri che viaggiano in un territorio molto ampio nell'area cisalpina e transalpina. Ma la prevalenza assoluta su questi 110 manoscritti che abbiamo descritto sono di area locale, di produzione di un Tirolo ampio, allargato da un punto di vista geografico, e ci fa vedere di questo, ci fanno apprezzare sia l'apparato decorativo, su quale vi farò esempi anche più avanti, sia anche le sottoscrizioni dei copisti di cui parlava prima anche Nicoletta Giovei. In questo caso siamo nel convento dei Francescani qui di Bolzano, vediamo la sottoscrizione di un copista che scrive sì, ma abbiamo anche il nome del committente, questo Ludwig Schmidt, plebano pievano ad Sanctum Petrum in Tirolo, quindi qui a pochi chilometri di distanza, quando però la città faceva parte della diocesi di Coira, quindi non era della diocesi di Bressanone come la maggior parte degli altri manoscritti. Ancora siamo al seminario vescovile di Bressanone, nella biblioteca del seminario vescovile, Jacopo da Varazze, la leggenda aurea, e qui è l'esempio che citava prima Nicoletta di una sottoscrizione decisamente accesa di un copista, la vedete in rosso, qui me scrivebat per noldus nomen abebat, e poi una serie di elementi classici nelle sottoscrizioni dei copisti. Qui scripsit scribat et longo tempore vivat, qui scripsit, e poi dice scripta manus eius sit benedicta, amen. Poi lancia un anatema, ut me furetur, quinittitur ex oculetur, un po' truce, però rende bene l'efficacia dell'accidente che poteva capitare a chi si azzardava a portare la mia manoscritta. E poi, molto molto banalmente, molto terra terra, dice scriptoris munus sit bos bonus, aut equus unus, quindi in questo caso vuole proprio andare sul concreto, sul materiale, datemi un cavallo o un bue per il lavoro che ho fatto. Ancora torniamo, perché questo è un caso molto interessante, l'hai citato Nicoletta, l'hai citato anche tu prima Ursula, della regula Ordini Sancte Clare, con una precisazione: dei 110 manoscritti che abbiamo descritto in questo libro solo 4 o 5 sono in tedesco, tutti gli altri sono in latino. Questo è uno dei casi di codice in quattro. Sono, questo è uno dei codici, dei casi in tedesco, la regola di Santa Chiara in tedesco, che si trova scritta da questa più volte citata Anna Riemersbergerin, che mette la data della sottoscrizione del 1517. È un caso raro di sottoscrizioni di donne che copiano. Ce n'erano sicuramente molto di più di quelle che abbiamo attestate, ma non sono così, così tante. Ancora un caso della collegiata di San Candido, che come sapete ha una raccolta straordinaria di codici di opere di Raimondo Lullo, forse in assoluto la più importante al mondo per compattezza, per omogeneità dei testi lulliani, dove abbiamo un caso che vi faccio vedere perché è significativo, di una sottoscrizione che purtroppo capitano, che è stata erasa. In questo caso c'è la data finis, vedete la data 1495, purtroppo neanche con la luce di Wood siamo riusciti a capire cosa ci fosse sotto, però alla fine ha lasciato non eraso melius scripsissem si bibere quid abuissem. Non era sicuramente acqua, era un buon, devo dire che in questi anni passati fra i manoscritti dell'Alto Adige ho avuto modo di apprezzare molto bene il Lagrein, che devo dire è stato un sollievo in certe giornate fredde autunnali, in certe biblioteche è stato un ottimo elemento di conforto. Ma ancora, venite a vedere cosa prima Nicoletta parlava di copisti, in questo caso è un copista italiano, di mano italiana, però guardate anche dove si trovavano a scrivere. Qui siamo ancora nella collegiata di San Candido, come codice. Si trova a Galzignano. Galzignano è un piccolo comune termale a 15 km fuori Padova. Questo era uno studente che ha scritto questa miscellanea medica nel 1456 in festo Marci, quindi nella festività di San Marco. Lui dice a Gelgsigan: ic finitur tractatus in paduano studio, e poi aggiunge in tempore pestis. Sapete bene che durante le pestilenze le città, per chi poteva, si svuotavano, per chi poteva. In questo caso era andato in questa località fuori Padova, a Galzignano, che si trova tuttora in campagna, oggi un po' meno campagna, ma comunque è sempre campagna. E quindi questa avete un'altra testimonianza di uno studente del suo girovagare. Di nuovo, Biblioteca dei Francescani di Bolzano era uno dei casi che citava prima Nicoletta. Guardate solo la tipologia di scrittura, adesso non scendo nei dettagli per quanto riguarda gli aspetti propriamente paleografici, ma qui abbiamo la fatica che io personalmente ho fatto, abituato alle scritture italiane, trovarmi di fronte a queste fittissime scritture transalpine, queste corsive molto ibride, molto alla viva mano, vi assicuro non è di facile lettura. È un quadragesimale, per cui è un testo che serviva poi per impostare le prediche, quindi aveva una funzione proprio pratica per i francescani che dovevano poi fare le prediche. Questo è stato scritto a Grosseto, ma direte a Grosseto sì, come diceva prima Nicoletta, ma da un copista, da un frate, Georgium de Tulna, Ordinis Minorum, che era a Grosseto, mentre però era studente in arte all'Università di Siena. Tunc pro tunc studentis arcium senis, lo vedete sul margine inferiore, sono le ultime quattro parole. Dobbiamo pensare quindi a delle comunità di scriventi che si muovevano tanto per questioni di studio, e portavano con sé i libri che facevano e li riportavano poi nei loro luoghi di origine. Quindi c'è una dallo studio dei manoscritti datati possiamo anche ricostruire il tessuto proprio di questi spostamenti, di questi movimenti della cultura scritta per come, per quella certi che ci sono arrivati. Un altro esempio di questo è un codice di San Candido della Collegiata, dove abbiamo questo Magister Johannes de Asfordia, che sappiamo si è dottorato all'Università di Ferrara, e nel 1461 scrive quest'opera, anch'essa di medicina. San Candido, come dicevo prima, ha una importante e ricca raccolta di testi di medicina. Sono pochissimi gli esempi per contro di mani di aria italiana. La stragrande maggioranza, ve l'ho fatti vedere adesso, sono di aria bavarese, sud della Germania, tirolese, oggi quella che è l'Austria, un'Austria estesa. Di aria italiana sono pochi, ve ne faccio vedere uno di un copista che si sottoscrive una quantità di volte a dir poco imbarazzante, e ogni volta che definiva un fascicolo diceva: e sono arrivato qua e sono arrivato là e adesso sto aspettando che mi diano, era un giudice, un magistrato, sto aspettando che mi diano, sono a Firenze ma aspetto che mi diano l'incarico a Gubbio. Questo Franciscus de Benedictis de Parma in Civitate Florenze, vedete, dum ibi expectarem ire in officium eugobi et ibi steti in mora feretotum mense, eccetera eccetera. Anche qui è una scrittura di base corsiva, notarile, cancelleresca, anche questa di non semplicissima lettura. Bisogna dedicarci veramente tanta pazienza e tanto tempo per riuscire a poi risolvere certi passaggi. Miniatura, chiuderò con alcuni esempi di miniatura che ha citato prima anche Ursula. La miniatura è locale, non abbiamo esempi di miniature provenienti da altre aree, sono codici, specialmente quelli di Novacella e quelli conservati al seminario, la biblioteca e seminario di Bressanone, con delle miniature veramente di altissima qualità come quella che vedete adesso, che abbiamo ripreso anche nella copertina del libro, che è stata è di mano di uno dei grandi miniatori della fine del 400, prima del 500 del Tirolo, che è Servatius Liechtenstein de Prussia, lui si sottoscrive come tale. E vedete, questa è la immagine ingrandita della e tenete presente che è un capolettera di minuscole dimensioni, adesso non mi ricordo le dimensioni esatte, ma è veramente molto molto molto ridotta, che qui vi ho ingrandito di una qualità eccelsa. Ancora, sto per chiudere, cito il Museo Diocesano di Bressanone per questo codice che è stato commissionato da Georg Saur nel 1493, anch'esso di miniatore, che è stata Regina Sherman, che la un nome, per me è un nome tedesco improponibile come miniatore. Sieber, il miniatore. Ecco, grazie per avermelo detto, perché a me mi si ingarbuglia la lingua, non sarei in grado di pronunciarlo. Che è dei sette pastori? Dei sette? Dei sette dormienti? Dei sette dormienti, va bene. È un codice che ha un apparato decorativo ricchissimo e che ritrae anche a un certo punto quella che era la chiesa di Tesido, che cioè, mi sono preso anche la briga di andarla a fotografare nei miei pellegrinaggi su e giù per le vallate. C'è, probabilmente non è la stessa, però c'è ancora la chiesa, c'è il campanile, ed è insomma, devo dire anche che devo confessare che mi sono anche tanto divertito andare avanti e indietro. Queste montagne le conosco da un punto di vista turistico, da alpinista, da sciatore, ma vederle adesso anche con l'occhio dello studioso, sono stati anni veramente molto, molto belli, e devo anche ringraziare di cuore tutti coloro che ci hanno aperto le porte, perché moltissime di queste biblioteche, salvo quelle più strutturate, il seminario, biblioteca e seminario di Bressanone, piuttosto che la biblioteca provinciale, piuttosto che in parte Novacella, ma molti luoghi, il caso più eclatante è quello delle Clarisse. Sì, è vero, io ho avuto la fortuna di vederle, ma perché c'è stata un'opera diplomatica straordinaria da parte di Andergass e di Schweinbacher, che è riuscito a un certo punto, il padre confessore delle monache usciva con le borse a portare i codici in deposito temporaneo presso la biblioteca dell'Hofburg, e lì ho potuto studiarli. È stata veramente un'avventura. Io delle Clarisse ho visto solo attraverso lo spioncino del parlatorio due magnifici occhi azzurri che mi hanno detto no. Però sono stato sono stato fortunato. Ultime cose. Dai codici ricaviamo anche notizie fondamentali riguardanti la storia e la provenienza dei manoscritti. Questo è un esempio di questo Johannes Brauneck, che ha comperato il libro, e lo stesso poi, vedete, nel 1483 l'ha portato, vedete, nella biblioteca dei frati minori presso le suore del cenobio di Santa Elisabetta a Bressanone. Vedete poi la stratificazione anche delle immagini, volevo farvelo vedere, invece le note di acquisto, una prima nota cancellata, una seconda nota aggiunta e una terza nota aggiunta. Quindi dallo studio anche di questi aspetti, che non riguardano gli aspetti del testo, non sono aspetti testuali, però ci tramandano la storia della trasmissione dei manoscritti. Chiudo con il Missale Brixinense di Bressanone, che anche in questo caso vediamo chi ha commissionato Hoc Opus Feci Scribi Johannes Episcopus Brixinensis, poi la data 1447 per manum Caspari Reuter, altro grandissimo copista che ci ha tramandato più di un manoscritto. Bene, io ho chiuso questa mia, ne avrei da parlare, potete immaginare, per ore, perché il lavoro è stato lungo, è stato anche piacevole, però qui io mi fermo e vi lascio eventuali vostre domande. Grazie. Suonate, sì, sì, certo, ci mancherebbe. Thank you. aspettane un'altra. No, ma perché dovete sapere che mentre stavamo catalogando manoscritti, ho scoperto che Ursula suonava. E lei mi ha detto: ti prometto che quando finiremo questo libro, ti farò sentire cosa facciamo. Non me ne fai un'altra. No. Beh, basta, allora niente. Va bene, basta, basta. Per la promessa è più che sufficiente. Ma guardi, signora, è stato un lavoro bello, piacevole. Di tutti i lavori che ho fatto in questi anni sui manoscritti medievali, questo no, sicuramente è stato il più lungo, il più faticoso anche da un punto di vista proprio logistico, perché certi ambienti, in certe situazioni climatiche erano di fatto impossibili da frequentare, perché erano chiusi, cioè non si può andare a San Candido in pieno inverno, perché diventa impossibile. E devo ringraziare ancora il convento dei Francescani qui a Bolzano, che mi ha ospitato, dove ho lavorato bene, e mi è capitato una volta in una stagione gennaio freddino mi è stato portato un piatto di speck e lagrain con un bicchiere, un calice di lagrain. È stato veramente un momento, potete immaginare, lavorando in biblioteche come, che so io, che so io, ero la settimana, due settimane fa ero alla Bibliothèque Nationale a Parigi, dove piuttosto che in Biblioteca Vaticana, non parliamone neanche. E invece poter lavorare così tranquillamente, serenamente, come abbiamo potuto fare qua, al di là di certe situazioni ambientali difficili, climaticamente difficili, è stata veramente una bella esperienza che mi porterò nel cuore, veramente una grande soddisfazione. Adesso mi dispiace che sia finito, però l'abbiamo finita. Qui lascio la parola a Nicoletta. Perché... Ma quello non sappiamo. Di quello che si sa, erano 70 manoscritti alla fine dell'Ottocento, oggi si sa di 26, quindi non ne sappiamo cosa è successo con gli altri, si vedrà. Però per quanto riguarda, scusami, se le donne copiste, in tanti monasteri femminili ci sono, però per esempio a Nuremberga abbiamo delle copiste proprio proprio raramente, che scrivono, che fanno le sottoscrizioni. Sì, sicuramente meno visibili di quello dei maschi. C'è una questione femminile che investe il ruolo della donna come scrivente attiva, e molto spesso è stato attribuito alle mani femminili uno scarso livello di qualitativo. Non entro nella questione perché non sarebbe lunga, dico solo che la pratica da parte delle donne della scrittura risale nel tempo. C'è una bella testimonianza di una serie di manoscritti che sono stati confezionati alla fine dell'VIII secolo per il vescovo di Colonia Hildebald da tutta una serie di monache che si sottoscrivono, ed è una pratica che continua nel corso del tempo, soprattutto in ambito religioso, ovviamente. Quindi, come in questo caso Anna era la badessa, troviamo molti casi di suore che con ruoli diversi scrivono, soprattutto nel tardissimo Medioevo e soprattutto in area tedesca. Il problema è che quelle lasciano una traccia. Di moltissime altre non sappiamo altre se hanno lasciato una traccia. Quindi il problema non è tanto dell'identificazione della mano come specificità grafica, quanto dell'identificazione della mano come autodichiarazione di paternità, anzi di maternità, passatemi questo termine, dell'opera da parte della scrivente. Insomma, quindi c'è questa ulteriore difficoltà. Il libro che lei citava è un libro d'antan, che quindi, insomma, e poi ha una prospettiva tutta filologica, e noi, grazie a Dio, ne abbiamo una paleografica. Devo dire un'ultima cosa e poi taccio, perché sto parlando sempre. Ed è un ringraziamento per Ursula, perché Io di mio non sarei mai arrivato a concluderlo questo libro. Ursula ha una conoscenza che ha dimostrato, io so descrivere i manoscritti, li studio, studio la scrittura, quindi l'oggetto manoscritto lo so affrontare. Però qui c'è tutta una parte di storia e di conoscenza del territorio e delle biblioteche, molto complessa, che Ursula prima ha descritto benissimo, in maniera molto sintetica, ma che ha dietro una sua conoscenza molto approfondita. Quindi il mio, siamo coautori di questo libro, però il merito, una grandissima parte del lavoro è stata fatta da Ursula, che devo ringraziare. Basti solo pensare che il 70% della bibliografia di questi codici è in tedesco. Il 30% c'è italiano, inglese, francese, ma il 70% è in tedesco. E lei, avendo una profonda conoscenza della storia e della bibliografia in tedesco, beh, siamo riusciti ad arrivare a questo risultato. Quindi grazie. Grazie.